Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, oggi di nuovo in diretta da Milano, dagli studi di Radio 24 qui nella sede del Sole 24 Ore, mentre ricordo che continuano i nostri collegamenti, le nostre dirette dei programmi dal Cibus di Parma. Di cosa ci occuperemo oggi e quindi che cosa ci riserva la cronaca della giornata economico-finanziaria, visto che in questo momento dovrebbe venire il giuramento da ministro di Carlo Calenda, nostro ospite molte volte da vice ministro dello sviluppo economico. Non ho mai fatto mistero e non ho nessun problema a dirlo che a mio avviso è uno dei pochi, diciamo, che grazie all'esperienza in passato conosce realmente le esigenze delle imprese, soprattutto sul fronte dell'internazionalizzazione delle imprese, e cioè aggredire, penetrare e aumentare le quote nei nuovi mercati. È riconosciuto da tutti come il vero artefice delle missioni, per esempio in Mozambico, in Iran, l'apripista delle missioni poi ufficiali. E ragazzi, insomma, noi abbiamo bisogno di queste persone perché Francia e Germania hanno ministri, viceministri di peso su questi interventi. Beh, dicevo, uno non può che essere contento che uno come Carlo Calenda vada a fare il ministro dello sviluppo economico. Resta un tema però, e cioè, visto che il Premier molto aveva insistito per mandare Calenda a gennaio, se non ricordo male, a Bruxelles, ricorderete lo scontro dopo novembre, dicembre con Bruxelles, anche la critica alla nostra diplomazia di pensare più a sembrare europei che a difendere gli interessi degli italiani. Devo dire che un po' di vero c'è, soprattutto nella parte di Bruxelles in cui tutti fanno molto gli internazionali, mentre i tedeschi fanno in primo luogo gli interessi dei tedeschi, i francesi dei francesi, gli inglesi degli inglesi e via così. Ebbene, visto che Renzi molto aveva insistito a gennaio per mandare Calenda, tra l'altro creando anche un po' di scalpore alla Farnesina, perché era una nomina irrituale, quello era un posto d'ambasciatore da sempre ricoperto da chi aveva fatto la carriera diplomatica dentro la Farnesina, quindi mal di pancia e non solo. Adesso, a distanza di 4 mesi scarsi, viene richiamato per farlo il ministro dello sviluppo economico. Delle due l'una: non era così importante quel ruolo, ma dubito, perché già ne parleremo, molti osservatori a Bruxelles facevano notare che erano stati aperti dei dossier importanti per difendere le esigenze, le priorità dell'Italia a Bruxelles, poco difese in tutti questi anni, con l'eccezione, devo dire, del commissario europeo Tajani, che sull'impresa italiana e soprattutto i crediti che vantavano l'impresa italiana nei confronti della pubblica amministrazione ha fatto molto. Ma dicevo, o non conta più quella posizione, oppure occorre che rapidamente venga mandato una persona a Bruxelles con un profilo più o meno simile, e non si può cambiare idea dopo appena 4 mesi. E cioè, se è un diplomatico che abbia questo grosso peso anche politico e che abbia come obiettivo quello che era stato dato a Carlo Calenda. Può sembrare una cosa così di diplomazia, ma in realtà poi attraverso questo passano i regolamenti europei, che sono più o meno penalizzanti per le nostre imprese, più o meno penalizzanti per le nostre banche, più o meno penalizzanti per la nostra economia. Per cui poi non ci si può lamentare dopo se scopriamo che pesiamo poco in Europa. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. Parleremo invece in apertura del risparmio. Perché? Perché dopo l'intervento del presidente della Consob Vegas, oggi c'è stato un botta risposta tra il vice ministro Zanetti e Vegas. Zanetti ha detto: Vegas deve calibrare bene le parole o rischia di fare imbestialire le persone, e ascolteremo anche che cosa ha detto. Parleremo di risparmio più o meno tradito, perché secondo quanto ipotizzato dalla Procura di Arezzo, in base a quanto risulta le indagini sinora condotte, all'interno di Banca Etruria sarebbe stata presente una cabina di regia per vendere le obbligazioni subordinate ai piccoli risparmiatori. Quindi altro che colloco un prodotto allo sportello come altri, e lui l'ha voluto comprare. cabina di regia, vuol dire che proprio avevi deciso in maniera anche organica, strutturale, sistemica, di collocare queste obbligazioni strutturate e fare in modo che venissero comunque collocate, da lì poi il reato, e quindi tradendo quello che dovrebbe essere il rispetto per il profilo di rischio del risparmiatore. Ancora, per quello che riguarda i temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo del sistema fieristico italiano, perché ieri c'è stato un accordo, eravamo al Cibus di Parma, insomma, non siamo riusciti a fare tutto, un accordo tra la fiera di Vicenza e quella di Rimini, sono due fiere molto importanti, per un'operazione di integrazione delle due società. E ricordo, visto che ne parlavo, che fu proprio il vice ministro Calenda a dire alle fiere italiane: o vi mettete a lavorare assieme ed evitate sovrapposizioni, a maggior ragione quando andate all'estero, ma non solo. Il caso più clamoroso era Arezzo e Vicenza, proprio sul fronte oro, ma non solo. Ci sono ogni tanto concorrenze o risvegli di concorrenza tra Verona e Milano sul vino. Ma o le fiere si mettono a lavorare assieme e non vanno in sovrapposizione, oppure i soldi noi li daremo, e questo è stato fatto, i soldi del Ministero, 30 milioni di euro se non ricordo male, solo a quelle che hanno un piano di integrazione e di coordinamento e anche complementare con le altre fiere, non quelle che si fanno la guerra in casa. E allora interessante vedere che appunto si sta andando avanti per integrare fiera di Vicenza e fiera di Rimini, che vorrebbe andare in borsa a Milano, confermata infatti anche la quotazione in borsa. L'accordo fa quindi cadere poi invece la possibilità di una collaborazione tra la fiera di Verona e la fiera di Vicenza. Il nuovo polo avrà 160 milioni di euro di patrimonio e ricavi per più di 110 milioni di euro. Ne parleremo più avanti, anche se sarà una chiosa su questo, non un approfondimento vero e proprio. L'altro grosso approfondimento riguarderà invece le difficoltà in cui stanno ancora navigando le piccole e medie imprese in questi anni. Negli ultimi 12 mesi hanno chiuso oltre 390 imprese al giorno. Emerge da una ricerca di Rete Imprese Italia con il REF, che è un centro di studi economici, e se la crisi, hanno calcolato, non si fosse mai verificata, il PIL italiano di oggi sarebbe del 15% superiore, cioè 230 miliardi di euro in più. L'unica buona notizia è che dopo sei anni consecutivi di calo del fatturato per le piccole e medie imprese, tra l'altro nel 2012-2013 fecero un meno 30% in media, nel 2015 si è assistito ad una prima ripresa con un incremento del fatturato del 10%. Parleremo anche di questo e poi della borsa: più 1,21% in questo momento Milano, più 0,30% Parigi, più 0,60% Francoforte, più 0,70% Londra, più 1% il Dow Jones, e ancora euro su dollaro 1,13,90, tra i titoli Prismian più 4,30, Buzzi più 3,50, Iux più 3,20, Fiat più 3, come Salvatore Ferragamo, Generali più 2,5, Exor più 2,40, come Telecom ed Enel, Moncler più 2,20, Intesa più 2% come UbiBanca. Fronte opposto, Banca Popolare meno 4, Monte dei Paschi meno 3, Anima Holding meno 2,60, Unicredit meno 2, Saipem meno 1,1, Banca Mediolanum non pure, Pop Emilia Romagna meno 1%. 349-238-6666 per i vostri sms e per WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Andiamo avanti con le notizie in breve. Iniziamo come spesso facciamo con i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Oggi si occupa di un dato a mio avviso interessante. Ne abbiamo parlato anche noi negli anni scorsi. C'era stata una crisi che aveva attraversato il colosso mondiale del fast food, mi riferisco a McDonald's, crisi di vendite, crisi di fatturato, crisi anche diciamo, di dipendenti. La concorrenza, soprattutto negli Stati Uniti, era arrivata da, chiamiamole così, fast food più di pregio, dove c'era un servizio migliore, una qualità anche migliore, però sempre all'interno di un rapporto prezzo-qualità molto molto vantaggioso, e va messo in crisi un gigante come McDonald's, il quale ha reagito, così Giuseppe Ciampi non mi scrive, il quale ha reagito, o McDonald's, ha reagito lei in quanto società, ha fatto tutto un insieme di investimenti e i risultati si sono visti, perché le azioni ha fatto anche una svolta salutista. So che può sembrare strano parlando di McDonald's, mi fa segno con la mano il tecnico, capito? Però rispetto a prima i risultati si sono visti, più 10% le azioni di McDonald's ai massimi da sempre nella loro storia. E ascoltiamo perché, il racconto di Alessandro Platerotti, vice direttore del Sole 24 Ore, all'interno dei 100 secondi di Radio 24. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Platerotti. Probabilmente non sono state le patatine fritte nell'aglio, che rappresentano l'ultima innovazione, a spingere il mercato finanziario a correre sul titolo di McDonald's, ma certamente la catena di hamburgerie, o almeno di fast food globale, che ha conquistato il mondo con i suoi hamburger, sicuramente è diventato un fenomeno di borsa. Più 30% il guadagno accumulato all'inizio dell'anno, addirittura più 280% il guadagno in 10 anni. Insomma, il cibo veloce, il fast food, l'hamburger sono stati contestati e condannati per i rischi per la salute, ma sembrano incontrare sempre più gradimento. Probabilmente è stata anche la svolta della catena di fast food a provocare questa impennata del titolo, una svolta non solo salutista ma soprattutto legata al territorio in cui insiste. Anche in Italia infatti è possibile sempre di più trovare dei menù su carattere locale o comunque di prodotti del Made in Italy, e lo stesso è stato fatto nel resto del mondo. Insomma, la crisi sicuramente ha morso un po' i consumi alimentari, ma non ha sicuramente morso il titolo di McDonald's, che continua ad andare a gonfie vele. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Altri dati di questa giornata economico-finanziaria: Grecia, Tsipras ha detto che per la Grecia è un giorno importante, e il 24 maggio, data del Consiglio Europeo, sarà il giorno della svolta. La decisione dell'Eurogruppo di ieri apre la strada a un alleggerimento del debito, e le misure di salvaguardia su cui si è trovato un accordo a Bruxelles non dovranno necessariamente essere applicate. I mercati comunque credono che si arriverà a un accordo. I tassi greci sono ai minimi, i rendimenti dei titoli di Stato ai minimi dal 2016, sono sostanzialmente per la prima volta sotto l'8%, il BTP greco a 10 anni rende 7,68%. Poi com'è che diceva la fattoria degli animali, che era il maiale se non ricordo male, no? Che tutti gli animali sono uguali, ma alcuni animali sono più uguali degli altri. Beh, il caso è quello della Germania, perché tutti i paesi dell'area euro devono rispettare le regole Maastricht, il 3%, le sanzioni, però poi siccome le regole prevedono anche che tu non possa avere un surplus commerciale, cioè un avanzo di bilancio troppo alto, perché sennò si creano squilibri, ripeto sempre la battuta, è come se un fratello che ha speso troppo venisse chiesto di risparmiare, giustamente. Ma se l'altro fratello non spende nulla neanche per tinteggiare la casa in cui abitano o cambiare lampadine e continua a mettere i soldi in banca, quella casa crolla, perché uno non può più spendere perché ha sprecato, vedi l'Italia, vedi soprattutto la Grecia, ha sprecato gli anni prima. Ma se l'altro è un tirchio, o meglio si fa solo i casi suoi perché usa i soldi non per sistemare lampadine o tinteggiare le pareti, ma per comprarsi macchine da mettere in garage all'estero, beh, è chiaro che la casa crolla. La casa è quella europea. La Germania continua ad avere un avanzo di bilancio che sta utilizzando per sostanzialmente fare investimenti fuori dall'Europa, investire anche in settori che poi non hanno tutto questo ritorno, quando se vi fosse una spesa, diciamo, all'interno anche dei confini europei, il vantaggio sarebbe per le stesse aziende tedesche, perché se poi riparte l'economia dell'area euro riparte anche la domanda di beni tedeschi. Comunque, nonostante le regole europee evidentemente non valgono per la Germania, perché il surplus commerciale è da record, di 26 miliardi di euro a marzo, differenza tra import e export, ben superiore agli stimi degli economisti che puntavano su circa 20 miliardi di attivo. Chiudiamo rapidamente sull'Italia, mica tanto rapidamente, che devo far sentire ancora Boeri e Poletti. Allora, la produzione industriale in Italia ferma a marzo, più 0,7% nel primo trimestre rispetto al primo trimestre di un anno fa, Rete imprese, abbiamo detto che insomma fa segnalare ancora una difficoltà forte nelle piccole e medie imprese. Per quello che riguarda le dichiarazioni di Boeri invece, allora, sono relative a quanto abbiamo raccontato ieri, cioè 100.000 posizioni di lavoro che hanno beccato di persone assunte a tempo indeterminato, che hanno usufruito del bonus, non è un bonus, ma insomma della decontribuzione che il governo ha dato l'anno scorso, alta, perché valeva fino a 8.000 euro, più di 8.000 euro per neoassunto all'anno, di contributi che potevi non pagare, li pagava lo Stato, per i prossimi tre anni. L'INPS si è accorta che su un milione circa sono 100.000 le posizioni di lavoro che hanno chiesto l'esonero triennale senza averne diritto, con un costo improprio di 600 milioni di euro. E Boeri dice, presidente dell'INPS, ci siamo accorti di questo in tempo, non si tratta di posti di lavoro fittizi, sono posti veri ma per i quali non era previsto l'esonero. Abbiamo già chiesto a queste imprese di restituire quella prima tranche di esonero che avevano ottenuto e soprattutto che non concederemo le tranche future. Tenete conto del fatto che sin qui c'è stato circa il 60% dei nuovi posti creati col contratto a tutele crescenti che ha fruito dell'esonero contributivo, quindi ci sarà una quota ancora leggermente inferiore, ma questi sono posti che rimangono, anche perché tenete conto che la normativa del contratto a tutele crescenti prevede il fatto che se io licenzio per esempio un datore di lavoro che reagisce al fatto che non gli si chiede di non che gli si dice che l'esonero contributivo non può essere dato per quella posizione, reagisse volendo licenziare il lavoratore, dovrà pagare 4 mensilità al proprio lavoratore, anche se quel lavoratore è rimasto solo un mese all'interno della sua azienda. E poi se il rapporto continua, come sappiamo, nella filosofia del contratto a tutele crescenti questi costi tendono ad aumentare. Quindi ci tenevo a chiarire questo aspetto, sono posti di lavoro veri. Quindi posti di lavoro veri che però non potevano rientrare nella categoria dei neoassunti con decontribuzione. Su questo è intervenuto anche il ministro Poletti, che ha detto i furbi saranno colpiti. In realtà, da quello che capiamo noi, il furbo ha fatto il furbo l'impresa che ha chiesto la decontribuzione non avendo negli estremi. Qualcuno potrà anche essersi sbagliato, però insomma i furbi non sono in questo caso i lavoratori, sono le imprese che hanno cercato di eludere i vincoli posti dalla legge su un vantaggio grosso. Però dicevo, i furbi saranno colpiti. In Italia, dice Poletti, accade molto spesso che su una legge ci sia qualcuno che fa il furbo. Il Ministero del Lavoro aveva spiegato che ci sono cose che non si possono fare, poi noi facciamo i controlli, chi ha sbagliato viene duramente colpito. In Italia accade molto spesso che sugli interventi e sulle leggi ci sia qualcuno che fa il furbo. L'importante è, come avevamo già detto in passato e avevamo detto anche durante i mesi nei quali venivano decise queste cose, ad esempio il Ministero del Lavoro, in particolare la direzione che si occupa dei controlli e delle ispezioni, aveva detto: attenzione, ci sono delle cose che non si possono fare e se fate queste cose ci sono anche situazioni dove ci sono dei reati penali. Più che dirlo e più che avvisare, non si può fare. Poi si fanno i controlli e quelli che sono fuori dalle regole vanno giustamente e duramente colpiti. Noi vogliamo bene alle imprese, gli italiani debbono voler bene alle imprese, ma debbono voler bene alle imprese regolari, quelle che rispettano le leggi, che non sfruttano il lavoro, che non usano il lavoro nero, che non fanno cose che non debbono essere fatte. Quindi bene le imprese, ma le buone imprese. Non credo che lo cambino in maniera così significativa, parliamo di milioni di lavoratori che hanno utilizzato la decontribuzione, quindi dal punto di vista dei numeri assoluti cambia molto poco. Quello che è importante è che diventano ancora più significativi i posti di lavoro stabili che si sono realizzati, perché avere quasi 400.000 posti di lavoro stabili in più alla fine del 2015 per me è un risultato assolutamente straordinario. Allora, iniziamo con il primo tema, il risparmio, o meglio, noi parleremo adesso della Popolare Etruria, però, ascoltate questo scambio, diciamo, tra il ministro Zanetti, il vice ministro Zanetti, che è vice ministro dell'economia ed è molto coinvolto nelle vicende Popolare di Vicenza, lui è veneziano e anche Veneto Banca, per certo so che aveva anche delle azioni, non tante, 20.000 euro mi sembra, di Veneto Banca, ma insomma ha partecipato all'assemblea della Popolare di Vicenza criticando il fatto di che non fosse passata sostanzialmente la possibilità di fare un ricorso ai vecchi vertici della Vicenza, ha partecipato all'assemblea di Veneto Banca e oggi era molto seccato con le parole pronunciate da Vegas ieri in merito ai prospetti delle obbligazioni subordinate. Vegas aveva detto i prospetti dei bond subordinati delle banche posti in risoluzione sono stati redatti nel rispetto delle regole di trasparenza previste dalle norme. Sentiamo prima Vegas su questo, così abbiamo la versione originale e poi la risposta di Zanetti oggi. Occorre ricordare che i prospetti e supplementi informativi che accompagnavano le emissioni delle obbligazioni subordinate delle quattro banche erano stati redatti nel rispetto delle regole di trasparenza previste dalle norme sul prospetto informativo, il cui contenuto è disciplinato direttamente da un regolamento comunitario. In fase di loro approvazione, Consob ha valorizzato tutte le informazioni in proprio possesso, incluse quelle trasmesse da Banca d'Italia. I prospetti in questione hanno dato massima evidenza a tutti i fattori di rischio connessi alla complessità degli strumenti e alla situazione in cui versavano le banche. Essi specificavano che l'investitore avrebbe potuto perdere l'intero capitale investito in caso di liquidazione o di procedure concorsuali. Questi elementi sono stati inseriti nella parte relativa ai fattori di rischio e nei casi più significativi sono stati ripresi e sintetizzati nella prima pagina dei prospetti, nella sezione denominata avvertenze per l'investitore. Io ieri non ho avuto modo di sentire Vegas dal vivo, se però effettivamente il presidente Vegas ha detto che i risparmiatori erano correttamente informati e al tempo stesso ha detto che i prospetti sono troppo complicati e vanno cambiati, trovo che ci abbia regalato un ossimoro di cui francamente non avevamo bisogno. Io penso che la politica seria non debba cavalcare il disagio, il malcontento popolare per attaccare le istituzioni, ma penso anche che chi siede nelle istituzioni debba calibrare le parole per evitare di far imbestialire anche le persone ragionevoli. Zanetti l'ha detto Vegas, l'abbiamo fatto sentire anche ieri, modestamente ci eravamo permessi di dire, però come fa un presidente della Consob a dire che nei prospetti delle obbligazioni subordinate, quelle che hanno fregato i risparmiatori di Etruria, Chieti, Ferrara e Marche, i rischi erano chiari, poi dire però il prospetto è scritto troppo lungo, non si capisce niente, troppe informazioni vuol dire nessuna informazione, ossimoro in italiano, lo dico a tutti, vuol dire una contraddizione in termini, cioè ghiaccio bollente, barisoni intelligente, sono tutti ossimori, va bene? Allora, tu come fai a dire che da un lato i rischi erano chiari e dall'altro però i prospetti informativi non sono chiari, hanno troppe informazioni e troppe informazioni vuol dire nessuna informazione? Onestamente ci siamo permessi di dire, insomma, forse mi sembra un po' un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Zanetti ha detto: io non ci sono andato ieri perché ho scelto di andare a parlare con i risparmiatori ad Arezzo. Noi Zanetti l'abbiamo cercato oggi, ma c'è il giuramento di Calenda, evidentemente impegnato in appuntamenti di carattere istituzionale. Invece c'è Sara Monaci che si sta occupando proprio della Popolare Etruria, tra le altre cose, dove c'è un dossier bancario. C'è Sara Monaci, buonasera Sara. Buonasera, esatto, dove c'è un dossier ci sono io. Beh, almeno non resterai disoccupata se avanti esatto, così. Esatto, esatto. Allora, al di là della, se vuoi commentare anche tu, benvenuta, nel senso che Zanetti era molto molto seccato con Vegas per questa doppia valutazione. Vai Sara. È comprensibile, poi io soprattutto credo sia naturale che Vegas dica questo, ma per un semplice motivo, perché queste famigerate obbligazioni subordinate le autorizzò proprio Consob. Quindi queste inchieste fanno venire alla luce, se non un fatto penalmente rilevante, un fatto politicamente rilevante, credo, che le autorità di controllo, Banca Italia e Consob, non entro nel merito della loro efficienza, hanno un problema nel parlarsi fra loro. Quindi queste inchieste fanno emergere quantomeno che c'è bisogno di una riforma perché si possano mettere in luce le informazioni che ha uno che può riversare sull'altro e viceversa, perché oggi viviamo nella contraddizione per cui Banca Italia si occupa dell'istituto che emette il prodotto, quindi della salute semplicemente dell'istituzione, mentre invece la Consob è del prodotto. Quindi capite che in queste due cose esistono dei forti collegamenti, ma uno non si occupa dell'altro, quindi evidentemente vengono anche fuori questi ossimori, come per dirla, sì, per dirla con il vice ministro. Ricorda quando 20 anni fa carabinieri e polizia non si parlavano, voglio dire un po' questo, esattamente. Allora, qui infatti noi ci siamo permessi di dire non che la Consob avesse tutte le responsabilità, ma semplicemente che nella relazione di Vegas di ieri mancava un passaggio fondamentale, come è mancato quando ha parlato il governatore della Banca d'Italia Visco, un minimo di autocritica nella vita. Cioè, ma non è possibile, insomma, se le cose non vanno bene, uno può dire, soprattutto se sta ai vertici, beh, valuteremo anche noi dove abbiamo sbagliato, se c'è qualcosa. No, tutti hanno fatto, io ho messo in guardia, la Banca d'Italia, dice la Consob, ha commissariato queste banche, quindi noi non potevamo più intervenire, i prospetti vanno, le informazioni, la Banca d'Italia dice, beh, noi siamo andati, abbiamo fatto le ispezioni, tutti hanno fatto il loro lavoro, e chi rappresenta Asca sono decine di migliaia di risparmiatori in queste quattro banche, poi aggiungerei anche su vicende diverse, Popolare di Vicenza e Veneto Banca. E insomma, dire che tutto va bene, madama la Marchesa, allora forse non servite come organi di vigilanza, perché sennò o dite guardate che adesso stiamo lavorando per mettere ancora più a punto alcuni meccanismi di controllo, ma non è che il questore di una città o il comandante dei carabinieri della città, a fronte di un'escalation di omicidi, può dire ma noi stiamo facendo il nostro lavoro, tutto funziona, perché viene preso e rimosso. Comunque, Sara, resta con noi, perché invece vorrei capire, visto che tutto andava bene, che cosa stanno scoprendo gli inquirenti sulla Popolare dell'Etruria, perché quando sento parlare di cabina di regia, capisco che, per rispondere a un ascoltatore che dice, guardi che uno legge il prospetto informativo, firma, si assume i rischi, potremmo stare qua delle ore. Sì, bisogna vedere chi te lo propone, che cultura finanziaria hai. È previsto dalla MIFID questo, è previsto che si tenga atto della cultura finanziaria della persona a cui vendi questo prospetto. Non puoi venderlo alla vecchietta o alla persona che ha cultura finanziaria pari a zero, dicendogli che è una cosa tranquilla e sicura, si chiama obbligazione, ok? Perché sarebbe come su un farmacista, quando vende qualcosa dicesse, tanto c'è scritto nel prospetto che muori se bevi, se ne prendi una goccia in più, ma che vuol dire? Il farmacista non ti dice, guardi, stia attento, magari questa cosa qui, mi raccomando, la prenda a stomaco vuoto, no? Non è che uno si legge tutto il bugiardino per sapere se deve prendere a stomaco vuoto, no, dai, non nascondiamoci tutto il dito. Comunque, dopo il meteo. Logisticamente, Modul Block. Scarica l'app Modul Block e vivi l'esperienza in realtà aumentata. Vi presenta Focus Economia. ...17:42 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Sara Monaci, cos'è sta cabina di regia su cui gli inquirenti stanno indagando nei confronti della Popolare Etruria? Mi scrivono allora alcuni ascoltatori, dice, guardate, sì, che la cabina di regia per far vendere prodotti dipendenti esiste in tutte le banche, prendo il messaggio così come lo leggo, al 349-238-6666, funziona tramite la tecnica del terrore, un bancario, questa è l'ora in cui molti bancari ci ascoltano perché escono dall'ufficio, dalla banca. Allora, fermo restando che ci sarà in molti istituti, noi stiamo parlando di una cabina di regia di una banca che poi è fallita, questa è un po' la differenza. Per fare che cosa questa cabina di regia? Allora, questa cabina di regia, che chiaramente, diciamocela, è anche una semplificazione giornalistica, un po' un espediente mediatico che la stessa procura poi utilizza, erano le circolari, in particolare una circolare che abbiamo anche noi pubblicato del 31 maggio 2013, che serviva a dare indicazioni dalla sede centrale alle filiali sul territorio di piazzare queste obbligazioni subordinate ad un'ampia clientela, e veniva indicato un rischio 3, ovvero un rischio medio. Quindi quello che dice il radioascoltatore, che tutti quanti potevano essere messi al corrente della situazione, si assumevano i rischi perché esiste un profilo MIFID, è vero, però è anche vero che in questo caso, dice la procura, si è riscontrato diversi casi in cui questi profili MIFID, ovvero la competenza dei clienti, veniva alterato volutamente. Quindi ad esempio un anziano signore con la terza elementare veniva fatto passare per un impiegato con un diploma, in modo tale da poterli vendere questi prodotti, altrimenti non sarebbe proprio stato possibile venderli perché era un cliente escluso da certe proposte. Certamente la truffa sarà da valutare caso per caso, non si può dire che 12.000 clienti siano stati indifferentemente truffati. No, certo, perché se l'avessero venduta a me, adesso uno potrebbe dire che io sono il sommo, c'è anche chi, insomma, lo sta scrivendo, letto qualcosa il sommo in più dell'ignoranza finanziaria, quindi ricadevo nella categoria di che tu, però teoricamente, almeno quello che prevede la legge, una persona con il mio profilo gliela puoi vendere, diciamo, non puoi iniziare a far spacciare per laureati ed esperti di finanza persone che nella vita hanno fatto tutt'altro. Esatto, poi chiaramente oltre alla circolare, che appunto come dicevo è un po' il simbolo di questa situazione, è anche vero che la procura ha riscontrato delle testimonianze verbali di telefonate, qui mi ricollego all'altro intervento dell'altro radioascoltatore, a delle telefonate che sembravano piuttosto coercitive, quindi a mail, a testimonianze proprio verbali di un'imposizione, quindi anche probabilmente di qualche forma di ricatto. Ovviamente ci sarà da appurare caso per caso, però spieghiamolo, il lavoro degli inquirenti non è finito, perché questa circolare e altre circolari sono state inviate da dei funzionari apicali, da dei manager apicali alle filiali. Ora siamo alla ricerca del secondo livello, quindi ancora il quadro non è ancora del tutto definito, perché questo secondo livello dovrà essere trovato con le perquisizioni che sono state fatte ieri, e per cui si deve collegare queste due circolari ad un ordine che invece è arrivato ancora più su, probabilmente dalla direzione generale e dal CDA. In particolare si fa riferimento a presidente e alle persone più vicine al presidente, non mi sembra di vedere che si cerchi la responsabilità in tutti i 15 consiglieri, ma soltanto in quelli che avevano proprio una delega. È inutile girarci attorno, anche del vicepresidente papà del ministro Boschi? Allora, il vice il padre del ministro, sì, che all'epoca era vicepresidente nel secondo CDA, ma in questo CDA di cui stiamo parlando era un consigliere semplice, sì. Sembrerebbe in questo momento avere una responsabilità molto più limitata. Stiamo parlando invece di responsabilità che io ritengo vadano a ricadere nelle persone che sono già indagate per gli altri filoni: ostacolo alla vigilanza, emissione di fatture false, quindi l'ex presidente Giuseppe Fornasari e probabilmente l'ex direttore generale Luca Bronchi, perché è proprio la direzione generale che dovrebbe aver avuto un impulso. Quindi Sara, se ho ben capito, scusami, tu dici loro stanno lavorando, gli inquirenti stanno lavorando, sì, per capire come funzionasse questa cabina di regia che poi dava l'ordine alle varie, sì, filiali di collocare prodotti, sì, anche a profili assolutamente fuori da quello inadeguati che prevede la, sì, legge. Però, esatto, l'obiettivo non è la cabina di regia, è andare verso l'alto e capire, esatto, perché non è che la cabina di regia decide da sola, su, esatto, e capire che indicazioni sono arrivate dal CDA, dai CDA precedenti. Esattamente. Perché questo significherebbe un salto di qualità proprio nell'inchiesta, perché vuol dire che eventualmente le figure apicali verrebbero indagate per truffa. Al momento, certo, lo ricordo, per truffa sono indagati 10 funzionari di filiali, ovvero persone che stanno sul territorio e che le hanno indagate, ma è chiaro che non ci si accontenta, questo è un livello iniziale, è un'indagine dove l'avviso di garanzia è proprio dato per la ricerca delle prove e per garanzia delle persone. Non mi sembra proprio di capire che gli inquirenti siano soddisfatti di questo livello. Qui siamo vicini al cosiddetto secondo livello, siamo ai funzionari apicali, questi due funzionari di cui non sono usciti i nomi perché sono persone che ancora hanno per gli inquirenti scarsa rilevanza, sono l'intermedio, la figura intermedia che serve a collegare le filiali proprio con la direzione generale, quindi la perquisizione di ieri serve proprio a completare il quadro. Oltre la cabina di regia, come dicevi tu, è proprio interessante capire l'ordine che parte dall'alto, perché qualora si riuscisse a individuare l'ordine che parte dall'alto vuol dire che le figure apicali verrebbero indagate per truffa. Allora Sara, resta con noi perché dopo il meteo e buonanotte meteo, il traffico, vorrei capire un'altra cosa, una ce la chiedono gli ascoltatori, altre due cose: ma perché parliamo o stiamo parlando molto solo di Banca Etruria? Quindi c'è un elemento anche politico dopo tutte le polemiche sul procuratore capo di Arezzo, vicino alla famiglia Boschi, no, non vicino, e quindi un aspetto che riguarda anche il peso del governo, oppure è perché lì sono più avanti con le indagini. Per quello che riguarda invece il fatto che non siano solo i 10 funzionari di filiale, insomma, adesso passatemi l'esempio, ma non è che per capire chi gestisca lo spaccio di stupefacenti ti puoi accontentare dei push e de strada, eh? Questa cosa l'abbiamo vista fare molte volte. Vai a cercare, o a meno che non stabiliamo che i funzionari di filiale da soli avevano deciso di collocare obbligazioni subordinate a clientela che era assolutamente inadeguata a capire il rischio. Traffico. Focus Economia. Allora, Sara Monaci, l'ultimo aspetto: perché parliamo spesso dell'Etruria e non di Popolare Etruria e meno di Ferrara, Popolare Ferrara, Marche e Chieti? Allora, ci sono più elementi. Uno, non nascondiamoci, c'era un coinvolgimento possibile del padre della ministra Maria Elena Boschi, e questo non per un fatto di morbosità, ma perché dal punto di vista politico poteva costituire un elemento di un possibile conflitto di interesse. Comunque ha creato un dibattito dentro il Parlamento con un voto anche di fiducia. Di conseguenza questo era l'elemento, diciamo, anche della prudite politica o il caso politico. Questo era un elemento che sicuramente è stato rilevante. Il coinvolgimento del padre della ministra Boschi, che è ancora presente ma sicuramente si sta sfumando, non toglie però l'importanza a due questioni. La prima: esiste un livello di diffusione delle emissioni delle subordinate, delle obbligazioni subordinate, più alto probabilmente delle altre, un prodotto che è stato venduto con una certa tenacia sul territorio. E l'altra questione è che sono piuttosto avanti le indagini, è vero, chi lo fa notare. Ricordiamo che Banca Popolare dell'Etruria, così come anche Banca Marche, sono due banche molto rilevanti per il territorio, e rispetto ad altre banche, Banca Etruria rispetto alle più piccole, le altre due più piccole, è sicuramente più importante perché aveva un ruolo nel territorio di Arezzo con il settore orafo molto importante. Era una banca con una grande importanza per gli imprenditori del settore. Quindi esistono più aspetti, parte con il caso politico, poi l'inchiesta è andata molto avanti. Beh, c'è stata anche una spinta probabilmente, e poi anche il profilo della banca, che era più complesso, diciamo così, è articolato rispetto alle altre tre banche in questione. Nel ringraziare Sara Monaci, ci spostiamo a Vicenza, ma non per parlare della Popolare di Vicenza una volta tanto, perché una volta tanto da Vicenza, non è periodo, però arriva una buona notizia. Ricordavo in apertura che proprio quel ministro che sta giurando, ha appena giurato, Carlo Calenda, era stato l'artefice di un piano per spingere, non dico obbligare, ma quasi, le varie fiere italiane a lavorare in maniera coordinata, possibilmente anche integrata, e a smettere con le sovrapposizioni delle volte in cui andavano a accaparrarsi gli stessi settori o volevano farsi concorrenza, dicendo i soldi che il ministero dà, i 30 milioni, andranno solo a chi dimostra di sapesse aggregare. Lo cito perché Fiera di Vicenza e Rimini Fiera hanno siglato una lettera di intenti con un accordo per integrare le due società. Siamo in collegamento con il presidente della Fiera di Vicenza, Matteo Marzotto. Buonasera, presidente. Buonasera. Le chiedo, visto che stiamo festeggiando un'integrazione che andava, tra l'altro, che taglia fuori la Fiera di Verona, adesso ne parliamo, le chiedo qualche minuto di pazienza ancora, perché ho il GR. Mi dica solo negli ultimi 30 secondi quando arriverà la fusione vera e propria, nei tempi, poi parliamo del resto. Guardi, noi crediamo di poter sottoporre agli azionisti i concambi e quindi una logica di decisione seria entro, diciamo, la prima metà di giugno, quindi io auspico entro la fine di luglio di poter avere tutta una serie di adempimenti dei soci pubblici e per la fine dell'anno dovremmo poterla fare. Ecco, questo è il nostro adesso schedule. Dopo il GR24 cerchiamo di capire, invece andiamo un po' a gambero, perché avete voluto farla. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Ci sentiamo dopo il GR24. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, siamo in collegamento con il presidente della Fiera di Vicenza, Matteo Marzotto, per parlare di questa operazione di fusione. Poi lo dico a chi sta scrivendo, abbiate pazienza, parleremo, non sfugge a nessuno il fatto che a dicembre 2014 Matteo Marzotto è entrato nel CDA della Popolare di Vicenza, e un commento glielo chiederò anche su questo. Fatemi prima parlare della notizia. Allora, presidente Marzotto, perché avete deciso di lei ci ha confermato prima che entro giugno arriverete vorreste arrivare a proporre agli azionisti delle due fiere, Vicenza e Rimini, la fusione. Che cosa vi ha portato a creare un unico soggetto fieristico tra voi e Rimini? Ma guardi, io da 2 anni e mezzo sono alla Fiera di Vicenza. Mi ricordo cos'era la società allora, abbiamo lavorato molto sulla strategia e evidentemente abbiamo lavorato anche sulla quotidianità, abbiamo cambiato tante cose, ma dal giorno uno mi era chiaro che il sistema fieristico italiano è prevalentemente formato da piccole aziende, comunque la nostra, seppure la più redditiva, la più performante, insomma, tra virgolette la più bellina, è comunque troppo piccola. E quindi io ho iniziato un cammino a giugno del 2014, dico io, ma insomma, perché personalizzo, diciamo, abbiamo iniziato un cammino molto convintamente di verifica con la Fiera di Verona, non è parso possibile, e quindi devo dirle, in questo momento anche meglio così, diciamo, ho trovato tutto sommato. Ma cos'è che vi ha, siccome noi conosciamo, lo dico col massimo trasparenza, spesso andiamo e trasmettiamo in diretta, in questi giorni siamo in diretta dal Cibus, quindi Fiera di Parma, abbiamo fatto il Vinita di Fiera di Verona, facciamo la Fiera di Milano, l'abbiamo fatta col Salone del Mobile, insomma noi andiamo laddove le fiere vanno a rappresentare parti del tessuto produttivo di questo paese, ovviamente, e conosciamo poi vari meccanismi. Ma dico, cos'è che vi ha impedito di, o vi ha fatto pensare che fosse meglio non andare avanti con Verona? Perché uno a guardare da fuori direbbe, vabbè, ma forse Verona e Vicenza era più naturale, visto anche l'asse geografico. Beh, perché per fidanzarsi o per sposarsi bisogna essere in due. Certo. E io per molto tempo, anche formalmente, con dei passi doverosi di consigli, assemblee, eccetera, ho fatto tutto ciò che mi pareva giusto fare, e abbiamo condiviso un cronoprogramma che di fatto, diciamo, non, a un certo punto è stato così evidentemente ripensato da loro, e quindi io ne ho preso atto, ma serenamente, non è che non ci sono polemiche, ne ho preso atto e ho pensato che però la nostra agenda non dovesse cambiare. In Rimini ho trovato una realtà industrialmente ancora più, diciamo, coerente con la nostra visione, la gente è molto preparata, molto dinamica, leader industriale prima di tutto, quindi proprietari di grandi prodotti industriali, a me interessa quello, è quello che ho sempre fatto. E potremmo dare alla luce il più importante gruppo italiano dal punto di vista della proprietà dei prodotti, dal punto di vista della redditività, della patrimonializzazione e della capacità di fare grandi quelle, di servire quelle filiere che hanno fatto grande l'Italia o parte di quelle filiere. Rivendico, lo dico con un sorriso perché mi permetto anche di avere un buon rapporto con il ministro, anzi congratulazioni col ministro Carlo Calenda, rivendico anche un po' un nostro ruolo, lui lo direbbe se fosse in trasmissione. Noi siamo stati i primi che con Arezzo hanno trovato un accordo, hanno fatto un accordo commerciale che potrebbe essere prodromo a qualcos'altro per quanto riguarda la gioielleria. Sì, oro. Vicenza Oro e Arezzo, esatto. Sì, certo. Lo so che lei ci segue e abbiamo fatto una serie di passaggi di questo tipo anche prima che Carlo Calenda ve li imponesse tra virgolette, perché ha detto non vi do i soldi, ve li suggerisce con forza, diciamo. Però devo dire, ecco, sì, ecco, questo suggerimento spintaneo, diciamo, ha aiutato tutto un insieme, tutta una filiera, è nato il tavolo della moda di cui noi facciamo parte, e questo è un grande lavoro che sta facendo il ministro. Adesso poi voi vi dividerete, immagino, le fiere con Rimini, no? Cosa farete? Ma guardi, credo che i territori devono sentirsi, secondo me, tranquilli, perché ci sono delle tradizioni, c'è un saper fare per certe filiere di un certo tipo. Più che altro possiamo fare di più e meglio, possiamo comprare prodotti, abbiamo le risorse per svilupparne. Attenzione che noi quoteremo in borsa, non a opportunità, ma addirittura appena possibile. Quindi noi dovremmo essere così, come dire, capaci e fortunati di fare un'integrazione in corsa, quindi una fusione, un'integrazione efficace e una quotazione. Quindi spero che senz'altro avremo le risorse e le idee per comprare, sviluppare, acquisire, insomma, e probabilmente essere anche un polo aggregante, se posso dire. Secondo me sta proprio cambiando. Ecco. Allora, ultima domanda, come dicevano i latini, in cauda venenum, perché lei citava il rapporto virtuoso che avete già realizzato, è vero, prima che Calenda vi spingesse a farlo, tra Vicenza e Arezzo sulla parte orafa, anche per andare all'estero, perché poi le fiere italiane non fanno solo lavoro in Italia, vanno anche all'estero, penso all'oro, ma penso anche ad altre fiere. Presentare la vetrina dei prodotti italiani, avendo noi una difficoltà, come spesso ricordiamo, nella distribuzione di questi prodotti, poi nella massa critica della distribuzione. Però dicevo, uno se dice Vicenza Arezzo, la prima cosa che gli viene in mente non è l'atto virtuoso che avete fatto voi, ma due vicende bancarie diverse per dinamica, ma devastanti in maniera uguale, forse peggio la Vicenza, sul territorio. Ora, lei è entrato nel dicembre 2014 nel Consiglio della Popolare di Vicenza. Ricordo le tappe ad agosto, metà dicembre 2014, a metà 2014 l'azione della Popolare di Vicenza viene portata a 62,50 euro, ad aprile 2015 a 48 e poi il resto lo sappiamo, febbraio 2016 6,30 euro e l'ultima operazione a 0,1. Insomma, lei, è chiaro, in questo lo dico a chi ne ascolto, spesso dentro i consigli di amministrazione di banche del territorio entrano anche gli enti del territorio, la fiera, non c'è niente di strano in questo. Ma lei, quando è entrato, aveva capito che la situazione fosse così tragica da azzerare completamente il valore dell'azione? No, ma scusi, ma secondo lei, se io avessi avuto un'idea di che cosa c'era in ballo, mi sarei messo in una condizione del genere? No, evidentemente no, non le dico lo stato d'animo. Diciamo che io avrei dovuto essere, nella logica delle banche popolari, avrei dovuto essere uno di quelle espressioni del territorio, espressione di eterogeneità, di scambio di valore aggiunto nei consigli che vengono da esperienze professionali di vario tipo. Ecco, questo le dico. Ma non immaginava. La di Vicenza è anche un importante partner della Fiera di Vicenza da sempre, proprio come sistema di territorio. Cosa vuole? Io, per quello che mi ricordo, insomma, parlare della banca era come parlare di una cassaforte, ecco. Di un gioiello. Sì, certo. Sì, lo dico anche, guardate, lo so che può sembrare, però lo dico anche a chi mi scrive. L'ex presidente Gianni Zonin è stato nostro ospite più volte, in alcuni casi per parlare di vino, in altri casi per parlare di banca. Andate a vedere il peso che aveva Zonin all'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Per cui non chiedete però ai giornalisti di sapere in anticipo quello che poi scopre con difficoltà la magistratura, e non aveva visto neanche la Banca d'Italia nella sua interezza, non voglio parlare della Consob perché in questo caso non era nemmeno quotata. Per cui a chi mi continua a scrivere, ah ma lei ha avuto ospite Zonin, certo ha avuto ospite anche Fiorani, delle volte cerchiamo di avere ospiti tutti i banchieri di questo paese, non sapendo e non presumendo se uno ha compiuto o meno dei reati, per cui adesso è indagato e poi li stabilirà la magistratura. Comunque immagino che però la situazione della propria Vicenza adesso, venendo al presente e al futuro, crei una difficoltà economica anche a voi o no? Guardi, noi abbiamo fatto il bilancio migliore della storia della fiera di Vicenza, e abbiamo fatto intorno al 20% di margine lordo di EBITDA, abbiamo una situazione patrimoniale e di cassa che è sotto controllo. Siamo sempre rimasti concentrati, è stato diciamo il 100% della mia attenzione insieme al team lavorare per quella società. Sono molto onorato e contento di avere questi risultati e sono molto contento che lei mi abbia chiesto qualcosa che riguarda la fusione con Rimini, che veramente se riuscirà sarà storica. Mi dispiace che parliamo anche di banche. Non è che possiamo parlare. Non lo sento. No, ma io le sto dicendo semplicemente, non la sento nella mia pelle, quindi voglio dire. Ho capito dal suo imbarazzo, ho capito benissimo che lei è entrato non sapendo diciamo che cosa stava per esplodere, perché sennò totalmente, perché sennò chi che le faceva fare ad entrare dentro? Adesso detto proprio brutalmente. Quello che posso dirle è che il territorio, almeno per quanto riguarda il mestiere di cui mi sono occupato, è un territorio forte, pieno di idee, abbiamo applicato così un certo modo di gestire che è un po' innovativo e fino adesso stiamo avendo ragione. Bene. Se Rimini viene con noi e noi andiamo con Rimini, vuol dire che l'Italia può esprimere un soggetto almeno di livello europeo, e lo fa per la prima volta anche in Europa. Sarebbe una fusione di questo tipo, sarebbe la prima volta che avviene. Quindi, guardi, in bocca al lupo a lei e a voi, intesi come Vicenza, Fiera di Vicenza e Fiera di Rimini, nella speranza, lo dico in maniera molto esplicita, che ve ne siano anche altre di aggregazioni, non perché l'abbia ordinato il medico, ma perché proprio per le sfide che tu hai, il tema delle dimensioni vale per le imprese, vale anche per gli enti fieristici, e quindi ti dà maggiore possibilità di lavorare sul territorio e di andare all'estero, che è un tema che, come sapete, a me interessa moltissimo, visto che poi i nostri paesi concorrenti questo fanno. Quindi io spero che voi, al di là del vostro specifico interesse, diate anche un segnale complessivo all'intero sistema. In bocca al lupo per la fusione, poi riparleremo quando avverrà la quotazione. Grazie al presidente della Fiera di Vicenza, Matteo Marzotto. Andiamo sul traffico e poi ci spostiamo a Bruxelles. Focus Economia. Allora, la borsa per quello che riguarda Milano più 1,41 è nettamente la migliore grazie ad alcuni titoli bancari, ma non solo. È oggi Parigi fa più 0,30, Francoforte più 0,60, Londra più 0,70, molto bene infatti Buzzi Unicem scusatemi più 3,90%, Yux Net-a-Porter più 3,30, Exor è bene in generale oggi il lusso, Exor più 3%, Fiat Chrysler più 3%, UbiBanca più 2,60, Generali più 2,5 come Salvatore Ferragamo e Moncler, Enel più 2,40 come Intesa San Paolo. Quindi anche alcune banche hanno contribuito, e tutto il gruppo Fiat, visto che anche CNH guadagna il 2%, Telecom Italia più 2%, venerdì arriveranno i conti, ma comunque la reazione sull'offerta per acquisire MetroWeb, 820 milioni senza Sparkle, sembra essere stata accolta positivamente. Ancora, per quello che riguarda invece chi ha perso, Monte dei Paschi il 3,20%, c'era stato un tentativo di rialzo delle popolari soprattutto, Banco Popolare meno 3,12, Anima Holding meno 2,30, poi c'è Saipem, c'è stato un taglio del giudizio da parte dell'agenzia di rating Standard & Poor's, meno 1,70, Unicredit ha presentato oggi i conti del primo trimestre, l'utile in calo a 406 milioni, meno 20% rispetto al primo trimestre del 2015, Il gruppo ha anche annunciato di aver chiuso 92 filiali nei primi tre mesi con 25 milioni di risparmi. Ghizzoni ha escluso un nuovo aumento di capitale. Il piano procede a ritmo previsto. E i crediti deteriorati, le sofferenze sono in calo del 7% a 38 miliardi di euro. Il titolo in borsa oggi ha perso l'1,47%. Migliori e peggiori della seduta oggi in borsa: Stefanel più 18%, IKF più 6%, Rete Elite più 5,5%, Mondadori più 4%. Sul fronte opposto invece Nokia Corporation meno 7%, Cassa di Risparmio di Genova meno 5,90%, Molmed meno 5,30%. Subito una nuova nomina a Bruxelles, scrive il Sole 24 Ore oggi. Perché? Perché stiamo commentando dall'inizio del programma il giuramento da ministro di Carlo Calenda. A nessuno sfugge, c'è stata un po' di ironia su alcuni media anche a Bruxelles, che però Calenda fu mandato lì a gennaio, a dicembre in realtà dal premier Matteo Renzi, arrabbiato per il poco peso che l'Italia aveva a livello europeo a Bruxelles nella squadra di Juncker, e quindi si disse: ci serve un uomo che riporti le istanze, le esigenze italiane che spesso vengono ignorate. E Renzi disse: abbiamo anche dei diplomatici a Bruxelles che sono più attenti a mostrarsi europeisti che non a difendere gli interessi dell'Italia, a differenza di quello che fanno tedeschi, francesi, spagnoli. Dicemmo a quel tempo tutto vero, purtroppo. La debolezza è anche dei nostri politici a Bruxelles, ma è in parte anche del nostro corpo diplomatico. E fu mandato in maniera rituale Carlo Calenda da vice ministro dello sviluppo economico a Bruxelles come ambasciatore plenipotenziario. In maniera rituale, perché molti alla Farnesina ebbero il mal di pancia, era la prima volta che un politico veniva mandato in un ruolo da ambasciatore. Ma tant'è. E leggendo i commenti in questi giorni sui vari siti che si occupano di vicende di Bruxelles, insomma, emergeva come Calenda avesse già messo mano a importanti dossier delicati, uno su tutti, il Migration Compact. Ora, fermo restando che sarà un ottimo, per come lo conosciamo, un ottimo ministro dello sviluppo economico, l'appello di Adriana Cerretelli oggi su Sole 24 Ore, subito una nuova nomina a Bruxelles, lo accogliamo, così come accogliamo la mitica. Buonasera Adriana. Buonasera. Allora, buonasera. È vero che insomma c'è anche un po' di ironia così nei vari funzionari, come prima sembrava che fosse questione di vita o di morte, adesso Renzi lo richiama, ma oltre all'ironia qual è il compito che deve avere chi prenderà il suo posto? Cioè, tu sei dell'idea, visto che sei una decana dei giornalisti, diciamo, europei, che debba avere quel ruolo lì più politico quasi che diplomatico, che da Farnesina in maniera stretta? No, io trovo che anche il diplomatico va benissimo, è sempre andato bene, voglio dire, ci vuole una persona che sia assolutamente votata a questo compito, che non è un compito facile, ma è un compito che diciamo sta alla base, in fondo, del nostro posto in Europa, della difesa dei nostri interessi quando si tratta appunto di prendere ogni decisione, che sia legislativa o che sia di creazione di politiche comuni, per cui oppure i negoziati naturalmente sui nostri conti pubblici, il patto di stabilità, eccetera. È vero che oggi c'è anche molto ping pong tra le capitali, ma Bruxelles resta sempre nevralgica e centrale per quel che riguarda appunto la decisione sulla legislazione europea e la sua applicazione, senza contare la partita della concorrenza, la nomina dei nostri funzionari in un organigramma che piange quello che riguarda gli italiani, soprattutto ai vertici. Insomma, un ambasciatore o un politico a Bruxelles ha davvero tanto da fare, ma soprattutto è in un posto di importanza strategica per il nostro paese. Calenda adesso va allo sviluppo economico, ma non c'è dubbio che deve passare anche dall'Europa per poter rilanciare lo sviluppo economico, proprio perché l'Europa è sempre più intrusiva con le sue politiche, nelle politiche nazionali. Quindi insomma ci vuole una sinergia, no, tra Bruxelles e Roma, tra Calenda e la rappresentanza a Bruxelles che ha appena lasciato, proprio perché dobbiamo negoziare, dobbiamo difendere i nostri interessi e dobbiamo anche rilanciare le politiche, se così vogliamo fare, come il governo sembra voler fare. E si passa sempre da lì, insomma, si passa sempre da lì. Un'ultima domanda, Adriana. Ma fino adesso è chiaro che Calenda è arrivato a gennaio, quindi ha avuto pochissimo tempo. Tu avevi, ti eri già accorto di un cambio di passo, nel senso di un atteggiamento, un approccio più politico e meno, diciamo, diplomatico in questo senso, nei dossier aperti? Ma io ho visto una persona estremamente dinamica, estremamente attiva, che ha cercato prima di tutto di ricucire con il gabinetto di Juncker, mi sembra di capire, e che ci sia riuscito, perché in qualche modo sembrava avere normalizzato i rapporti. Vediamo che adesso Renzi non attacca più Bruxelles come l'attaccava prima, quindi si ha l'impressione che in qualche modo, e lo stesso Juncker è venuto a Roma, ha abbracciato, va bene che non vuol dire niente, l'abbraccio e i baci, ma insomma comunque c'era anche una mimica che sembra in qualche modo confermare che c'è una certa... cioè, insomma, la crisi dopo la tempesta, diciamo. Sì, la tempesta a cui fa riferimento Adriana Ceretelli, la ricorderete, era stato quello scontro abbastanza irrituale tra prima il Presidente del Consiglio e poi la risposta del Presidente della Commissione Europea Juncker, che ha detto: io non sono stupido, adesso vado a memoria sulle frasi, capisco benissimo certi atteggiamenti, e si era arrivati al livello più basso dei rapporti tra Roma e Bruxelles, e da lì poi la scelta di mandare Calenda a Bruxelles. Di nuovo in bocca al lupo al nuovo Ministro. Grazie Adriana Ceretelli, vedremo, io spero che il tuo invito oggi su Sole 24 ore, subito una nuova nomina a Bruxelles, venga realizzato nel più breve tempo possibile, perché se si è detto, e siamo d'accordo, che quello è un posto cruciale, non puoi lasciarlo vuoto troppo a lungo. Grazie anche ad Adriana Ceretelli, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.